Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Sono considerati gli inventori di un nuovo genere, il romanzo profetico. In realtà non si tratta dell'unico caso nel quale la fiction ha anticipato la realtà, soprattutto giudiziaria. Parliamo della coppia letteraria formata da Giancarlo De Cataldo, magistrato famoso per aver scritto Romanzo criminale, e il giornalista Carlo Bonini. Insieme avevano scritto Suburra, anticipando di fatto l'inchiesta Roma Capitale. Nella realtà, infatti, sono state poi individuate delle persone e dei comportamenti che i due autori avevano immaginato in quel libro, diventato poi anche un film di successo. Ora De Cataldo e Bonini tornano in libreria con il sequel di Suburra. Si intitola La notte di Roma, pubblicato sempre da Einaudi. Ci sono alcuni dei vecchi personaggi, come per esempio il samurai, che però ora è in prigione. Lo spunto narrativo è dato dal giubileo straordinario, che diventa occasione di trame politiche sulle quali i due autori concentrano l'attenzione. Ma De Cataldo e Bonini sono contenti di questa definizione dei loro romanzi come romanzi profetici? Sentiamo De Cataldo in questa intervista a Tre Voci. Ma le definizioni sono di chi le conia, quindi uno può accettarle o non accettarle. Abbiamo intuito qualcosa che stava accadendo a Roma e l'abbiamo raccontata, e poi la realtà ci ha scavalcato, come spesso accade, dimostrando che parte di quelle cose che raccontavamo avevano in effetti un fondamento della realtà, ma che ce n'erano ben altre che c'erano passate sotto il naso a noi come a tanti altri senza che ce ne rendessimo conto. E quindi direi un romanzo semiprofetico. Io però sono abbastanza allergico alle profezie negative, spero sempre di essere smentito quando scrivo qualcosa di particolarmente violento. È innegabile però che Suburra ha anticipato, come dire, l'inchiesta di Roma Capitale, è evidente. Bonini, da giornalista hai un po' la sensazione che effettivamente attraverso la fiction, i romanzi, si riescono a dire tante verità che poi solo poi col tempo e con le prove vengono poi effettivamente provate? Questo non c'è dubbio. Direi che ci sono due cose interessanti, molto interessanti nel misurarsi poi con il romanzo come format, no? Nel raccontare, nel descrivere non solo la realtà, ma nel descrivere, diciamo così, poi le dinamiche, no? Che innervano la realtà. Nel caso specifico noi raccontavamo Roma, no? L'anima di questa città, l'anima nera di questa città. Una è che indubbiamente la narrazione, il passo narrativo, ha una forza di penetrazione che il reportage classico, ma persino l'inchiesta classica, non ha. In questo ma per un fattore emotivo di coinvolgimento del lettore? Ma secondo me semplicemente perché poi, diciamo, ogni lettore è figlio del proprio tempo. Viviamo in un tempo in cui diciamo, l'esperienza cognitiva, no, è composta da fattori diversi. Probabilmente 50 anni fa, 60 anni fa, uno avrebbe scritto un saggio, no? Quei piccoli saggi per gli editori riuniti, no? Oggi probabilmente quella roba lì non avrebbe più diritto di cittadinanza, ma non perché fossero brutti, ma semplicemente perché è cambiata la cognizione, no? Gli strumenti di cognizione. D'altra parte è anche vero che il romanzo, qui parlo da giornalista, per raccontare una vicenda, dando a quella vicenda i contorni esatti della realtà, e quindi nomi, cognomi, circostanze, e sono necessari degli standard C, che sono innanzitutto standard di civiltà, ovviamente, e che diciamo spesso rendono impossibile non soltanto raccontarla quella verità, ma anche soltanto prefigurarla o abbozzarla. Quindi da questo punto di vista invece il romanzo, la narrativa consente, quindi ci sono due grandi vantaggi. De Cataldo, Suburra è stato un grandissimo successo, sia come libro, poi c'è stato naturalmente anche il film, che è stato veramente un caso cinematografico. La notte di Roma come romanzo inizia un po' dove terminava Suburra, nel senso che ci sono alcuni personaggi che ritornano, la storia va avanti, anche se analizzate un altro aspetto della corruzione romana. È vero che vi è venuto in mente di scrivere questo romanzo proprio nel momento in cui iniziavano i primi arresti dell'inchiesta di Roma Capitale, o è stata una coincidenza? Quello che io ricordo, e poi adesso possiamo chiedere conferma anche al partner della coppia di fatto, a Carlo Bonini, è che Il vero fatto che ci ha veramente colpiti è stata la decisione di Papa Francesco di proclamare il Giubileo. Ecco, quella cosa lì per noi è stata assolutamente fondante, perché introduceva questo elemento ossessivamente presente in Roma, che è il Vaticano, la cristianità. Roma è la capitale del cristianesimo, del mondo. È un fattore talmente condizionante che bisognava farci i conti. Però abbiamo scelto di prendere un elemento realistico, cioè il Giubileo, ma di andare in una direzione completamente distopica nel suo racconto, perché il Giubileo che noi raccontiamo e le manovre intorno sono un'altra realtà rispetto a quella vera, che è un Giubileo più povero, se vogliamo, più etico sicuramente, e che poi, questo ovviamente non potevamo immaginarlo, è stato pesantemente influenzato dagli eventi recenti, dagli attacchi terroristici che hanno, insomma, completamente cambiato lo scenario. Però per voi, come dire, per voi scrittori di fiction, il Giubileo è stato il là per raccontare vicende ancora di corruzione, come, non so, l'Expo lo è stato per Milano, il Giubileo, tutti i grandi eventi sono catalizzatori di corruzione, tangenti, malaffare, eccetera, eccetera. Ma perché noi abbiamo la segreta speranza che un giorno si possa arrivare a dei grandi, grandissimi, immensi eventi senza che 5 anni dopo venga fuori che c'era della corruzione. Per il momento l'Expo, diciamo, la corruzione dell'Expo è stata stoppata in prevenzione con l'authority e con quegli arresti che precedono, diciamo, l'avvio dell'Expo. E l'Expo ha fatto bene a Milano. Il romano che va a Milano trova una città illuminata e quando torna nella sua Roma trova, al momento attuale, una città buia, e questo lo fa soffrire moltissimo. Tante volte gli elementi più critici sono introdotti non perché ci si bei di sguazzare nel fango, ma perché si desidera uno scatto di orgoglio per uscire da questo fango. C'è anche una funzione catartica, se vogliamo, in questo modo di raccontare la malvagità che ci sta intorno. Cioè, liberiamocene una buona volta. Bonini, sicuramente questo romanzo è meno corale di Suburra, dove c'erano molti personaggi, c'erano tante vicende che si intricavano l'una con l'altra, eccetera. Qui avete deciso di concentrare l'attenzione invece su alcuni personaggi specifici, alcuni che c'erano già da prima, come, vabbè, il samurai che adesso è in carcere sotto il 41 bis, però insomma c'è un vuoto di potere nella criminalità e bisogna in qualche modo colmarlo, questo vuoto. Come mai questa scelta di cambiamento di sfondo letterario? Perché avevamo un'urgenza, quella di affrontare la microfisica del potere, no? La microfisica del palazzo. In qualche modo in Suburra il palazzo c'era, ma il palazzo era sullo sfondo, da un lato, le dinamiche del palazzo erano sullo sfondo, c'era un personaggio, il personaggio di Malgradi, cioè c'era il personaggio, diciamo così, che era indagato nelle sue fragilità, nelle sue ipocrisie, nella sua cialtroneria. Era un ritratto a tutto tondo di una, diciamo, di un animale politico italiano nella fase, no, una fase conclusiva di un'esperienza politica e culturale del paese. Qui l'operazione era diversa, il desiderio era un altro, cioè il desiderio era quello di affrontare i meccanismi violenti, violentissimi che governano la politica, e soprattutto di farlo in un terreno per noi, diciamo così, più agevole da un certo punto di vista, ma anche più complicato, la sinistra. In qualche modo Suburra era stato accolto come un romanzo che faceva sconti alla sinistra. Qualcuno aveva detto, cioè, vabbè, ma però questi due poi alla fine... Per par condicio avete pareggiato i conti. Questi due comunisti, no? La toga rossa, il giornalista comunista. Cioè. Invece, da questo punto di vista, in Suburra quell'intenzione non c'era. Ma a maggior ragione abbiamo voluto indagare quel mondo lì. E quindi questo è il motivo per il quale, diciamo, cambia lo sfondo della quinta, e anche il tipo di, diciamo, il tipo di struttura narrativa, una struttura più affilata, meno corale, perché il problema era affrontare appunto la microfisica del palazzo, la microfisica del potere, la microfisica delle dinamiche all'interno di un partito, di un gruppo di potere, nel caso specifico raccontiamo il Campidoglio, raccontiamo l'aula Giulio Cesare, ma raccontiamo appunto anche come si muovono, no? Come in questo spazio si muovono poi concretamente i protagonisti della politica. A proposito di Campidoglio, De Cataldo, c'è un personaggio meraviglioso, quello del sindaco, che voi avete chiamato Martin Giardino. Non vi siete ispirati a nessuno nella realtà? Come si dice, ogni riferimento a fatti o persone. No, siamo ispirati a Marino, questo possiamo dirlo tranquillamente. Io gli ho anche detto, ho voluto conoscere il sindaco di Roma, sono andato a trovarlo in Campidoglio. Lui mi ha raccontato che aveva recuperato la scrivania di Nathan, il vecchio sindaco di Roma, rimettendolo in piedi a sue spese, tutto vero. Ho voluto conoscerlo anche poi fuori, insomma, nella vita privata, ci sono stato a cena, mi ha fatto la sensazione di non aver ancora acquistato quell'habitus dell'uomo politico che diventa, diciamo, una specie di sguardo da serpente per cui ti classifica e ti qualifica immediatamente se gli servi, se non gli servi, che è un, diciamo, un mal vezzo di alcuni politici, diciamo, anche di tanti politici che ho conosciuto in varie occasioni nel corso della mia vita. E lui era una persona con cui potevi stare a cena tranquillamente, con i suoi limiti, i suoi difetti umani come li abbiamo tutti. Tanto che ne è uscito un ritratto sostanzialmente lusinghiero, a mio avviso. Sono molto peggiori di lui quelli che tramano nell'ombra per scaraventarlo giù dallo scranno. E che poi nella realtà, anche lì, noi abbiamo lasciato un finale aperto. Il libro è stato consegnato prima che ci fossero le dimissioni di Marino. Non ce la siamo sentita di azzardare una scommessa o una profezia in questo caso, anche se tra noi il dibattito è stato estremamente serrato. Reggerà, non reggerà, cadrà, non cadrà. E abbiamo lasciato. C'era un elemento profetico, battute finali, in cui ci si interroga sui destini del sindaco. E c'è una battuta in cui, diciamo, il protagonista, o comunque il coprotagonista del romanzo, dice: vabbè, ma ormai tanto non ha più nessuna importanza. Cioè, il destino politico di quell'uomo, arrivati a questo punto, è irrilevante. Da questo punto di vista la profezia c'è stata. Marino cade, questo lo dico da giornalista, Marino cade perché a un certo punto, come dire, ne viene decretata, a torto o a ragione, ma ne viene decretata dal partito di maggioranza che lo sostiene, la sua irrilevanza, no? Anzi, addirittura in quel caso il suo ingombro. Magari potete dare a Marino delle royalties del libro, in fondo vi ha dato un'ispirazione. Ma l'elenco di quelli che avanzano pretese sulle royalties, per quanto mi riguarda, dai tempi di Romanzo Criminale è sterminato. A proposito di Romanzo Criminale, quello è stato sicuramente il libro che ti ha dato più successo in tutti i sensi, sia come scrittore, poi è andato anche in televisione, ha avuto un grande successo. Cosa rappresenta per te quel romanzo? Gli scrittori ogni tanto dicono: ah sì, ogni romanzo è come un figlio, li si ama tutti allo stesso modo, sono tutti diversi, ma Romanzo Criminale ha qualcosa in più rispetto agli altri o no? Beh, tanto che si amino i romanzi tutti allo stesso modo, sono tutti figli, è vero. No, Romanzo Criminale è stato un punto di svolta, c'è una mia vita prima e una mia vita dopo Romanzo Criminale, in termini ovviamente di successo, in termini di visibilità. Allora è una bugia sostenere che non abbia avuto nessuna influenza, ci sono delle cose, sono dei punti di svolta nell'esistenza che ti cambiano la vita. Ero uno scrittore conosciuto da pochi, sono diventato uno scrittore conosciuto da molti. Questo influisce, incide sulla tua vita e ti dà tantissime opportunità, tantissime possibilità, però anche una sorta di peso ingombrante di dover sempre dimostrare: beh, non ha scritto solo Romanzo Criminale. Anche La notte di Roma diventerà un film? Ma su questo c'è un... Non lo so. So che sappiamo che è in cantiere una serie Netflix Rai. Ma su Suburra? Però insomma, Notte di Roma è quel mondo lì. Sono passati 4 anni da Suburra a Notte di Roma. Quindi anni si metterà un po' insieme entrambe le cose. È una delle possibilità che si stanno discutendo. E questi erano Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, ora in libreria con La notte di Roma, pubblicato da Einaudi, una sorta di sequel di Suburra. E a proposito di romanzi profetici, visto tutto quello che sta accadendo nel mondo delle banche, vi consiglio di leggere La pesca dello spada di Eugenio Tornaghi, che è un alto dirigente di un gruppo bancario prestato alla narrativa. È un giallo sul mondo delle banche, pieno di colpi di scena, di situazioni verosimili, spiegate in modo comprensibile anche per i non addetti ai lavori. La pesca dello spada, Eugenio Tornaghi, 900 editore. Breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. E ora vi parlo di un libro che può cambiare, anche se in piccola parte, come dire, il punto di vista sulla vita. Si intitola Woody, l'ha scritto Federico Baccomo ed è illustrato da Alessandro Sanna, pubblicato da Giunti. Allora, Federico Baccomo, uno scrittore che ormai al Cacciatore di Libri abbiamo imparato a conoscere dai tempi di Studio Illegale, La gente che sta bene, poi Peep Show, insomma, ti abbiamo intervistato su tutti i romanzi, sono giusto sempre Baccomo? Venuto qui lui a disturbarvi, sì. Esattamente, quindi possiamo dire che ti abbiamo quasi tenuto a battesimo. Diciamo subito che Woody è una scheggia impazzita nella tua storia da scrittore, perché insomma tu normalmente usi una certa ironia, un certo sarcasmo, prendi anche un po' in giro certi tipi di mondi, certi modi di fare, certi modi di dire, il mondo un po' fighetto, chiamiamolo così. Invece questo è una favola raccontata dal punto di vista di un cane, Woody, appunto. Tu sei scomparso come scrittore e hai preso proprio la voce di un cane. Questo cane racconta la storia con la sua padrona, che lui chiama appunto sempre padrona. Che rapporto c'è fra Woody e la sua padrona? E diciamo che Woody, come tutti i cani, ha un centro del mondo, del suo mondo, che è appunto la padrona, ed è fonte della sua gioia, fonte delle sue incertezze, delle sue attese. E padrona è appunto tutto quello che è per Woody il mondo, per cui anche insegnamento e anche risposta alle domande. E a un certo punto padrona, questa ragazza di poco più di 20 anni, esatto, si trova a fidanzarsi, a conoscere perlomeno un ragazzo, e c'è questo piccolo scarto tra l'amore silenzioso di un cane, certo, e l'amore dichiarato di un uomo. Per cui un uomo ti dice ti amo, un uomo ti fa tante appunto dichiarazioni, dice sei mia. Il cane te lo fa capire invece. Il cane è silenzioso e accetta invece. E c'è questo piccolo scarto, e da lì comincerà questa storia che diventa un pochino più grande, sempre però dal punto di vista piccolo degli occhi di Woody. Di Woody. Infatti la storia, ci sarà poi un momento in cui Woody interverrà in difesa della sua padrona, e per questo verrà strappato, la sua padrona messo in un canile. Insomma, poi mi fermo qui con la storia per non svelare tutto di questo piccolo libro, sono circa un centinaio di pagine, esatto, quindi sì, si legge appunto abbastanza rapidamente. Ecco, quelle scene in cui Woody è in gabbia e viene anche picchiato, insomma, ti devo dire la verità, sono rimasta molto colpita, perché ho iniziato a pensare come penserebbe un cane, o meglio, ho iniziato a pensare, ma se i cani veramente pensassero e avessero i sentimenti esattamente come tu descrivi Woody, cioè come se fosse un uomo, caspita, magari sbagliamo noi a comportarci con loro. E io non sono una appassionata di cani, non ho animali, eccetera, però mi ha posto una questione etica proprio. Sì, a me piaceva raccontare una storia, un segmento di vita di un cane, che in realtà è il segmento di vita della padrona, appunto, dal punto di vista del cane. Mi piaceva provare a raccontare degli eventi, dei fatti, che ai nostri occhi sono facili da capire. Agli occhi di un cane rappresentano una domanda, sia dall'evento più piccolo, per dire, noi vediamo due ragazzi che si baciano e diciamo quello è un bacio. Per un cane un bacio è una domanda. Cosa stanno facendo infatti? Perché è un altro modulo comunicativo di esprimere affetto, di esprimere sessualità. E quando questa domanda piccolina suscita appunto la risata nel caso di un bacio, quando interviene su questioni più grandi, come può essere il bene, il male, la violenza, l'amore, allora arriva con più efficacia in qualche modo. Woody, quando è in questo canile, dove subisce anche della violenza, a cui saprà reagire, questa cosa la dico perché di solito ai lettori fa molta paura questa cosa. No, infatti sa reagire, perché lui è, appunto, mi ha colpito la sua intelligenza, che dice a un certo punto è meglio che adesso sto zitto, non abbaio perché altrimenti mi picchiano col bastone. Insomma, c'è tutto un suo ragionamento. Che è proprio quello che succede a un cane. Quando il cane lo educhi, quando un cane riesce a capire come si svolge il mondo attorno a sé, è un passaggio piccolissimo, di appunto passo passo, come un cane che ad esempio impara a scendere le scale. È una cosa che chi ha un cane capisce. Arriva quel giorno e dice, ma come? L'hai fatto? Sei venuto qui a trovarmi? Perché esattamente come l'uomo c'è una crescita, una maturazione. Quando avviene da quel punto di vista, quello appunto piccolino, in qualche modo limitato, mentre noi lo leggiamo ci sentiamo come lui e capiamo che è lo stesso nostro percorso. Sì, è vero, io mi sono immedesimata, ti ripeto, non sono una di quelle che adorano gli animali, non ho animali domestici, non ho un cane, non l'ho mai avuto, però mi sono sentita molto dalla parte di Woody. Nel tuo caso invece tu hai esperienze di, diciamo, di convivenza con animali? Io non ho mai avuto un cane mio, ho frequentato quelli degli altri. Questa è bella. Sì, ed è stato bello perché diventa un moto di accettazione. Perché quando il cane è tuo ti vuol bene, ma quando tu frequenti una persona che ha un cane devi in qualche modo imparare a gestire il tuo spazio con lui. Io ricordo il cane della mia ragazza, i primi film che vedevamo insieme non potevamo finirlo perché questo mi abbaiava ogni volta che allungavo una mano per toccare una spalla. Per gelosia. C'è quel sentimento lì e tu capisci, dici, ma come può essere che un cane, che è un animale, abbia però... quel tipo di sentimenti, e scopri che quei sentimenti sono in qualche modo più puri dei nostri, perché sai, quando incontri una persona che è fedele dici: oh, quella è una benedizione. Un cane è per costituzione fedele, lo dai per scontato, quindi in qualche modo hai tutta una serie di purezze, di sentimenti veri, di sguardi candidi che tu dai per scontato, ma che per me come autore, ripresi, messi in un libro, mi davano la possibilità di raccontare una storia da un punto di vista che per me era inedito. Per cui svelare dei lati nascosti della vita, delle cose quotidiane, delle cose un pochino più grandi, e analizzarle con quel tipo di sguardo. È un romanzo, è un piccolo romanzo pieno d'amore, insomma pieno d'affetto. Abbiamo detto c'è anche il momento della violenza, però anche di Woody che proprio ama la sua padrona, e quindi a costo quasi della sua vita e la protegge, sì. La protegge proprio fisicamente. Sì, c'è questa cosa molto bella, sempre degli animali, che dovrebbe insegnare qualcosa anche a noi, che l'amore di un animale è in qualche modo privo di secondi fini, per cui io sono pronto a dare la mia vita perché tu sia felice. E per noi l'amore spesso invece è questa rivendicazione di possesso. Di possesso, per cui, certo. Se io non sono felice con te, non devi esserlo nemmeno tu. Ed è un tema che poi oggi, appunto, col femminicidio, lo stalking, è abbastanza attuale. In realtà saper amare vuol dire volere la tua felicità anche a costo di rinunciare a un pezzetto della mia. Se lo dice un cane, che in genere dovrebbe avere il senso del possesso, appunto del territorio, è ancora più fa un ancora cane più... lo fa, perché se rubi la pallina a un cane quello si arrabbia, certo. Ma se la padrona è più felice con quella pallina, il cane gliela lascia, gliela e questa lascia. È una cosa incredibile. Ecco, c'è anche tutto un linguaggio, naturalmente tu l'hai scritto dal punto di vista del cane, che è come se fosse sincopato, nel senso che ci sono spesso questi due punti, perché lui dice: mio nome Woody, miei anni quasi 3, Woody sa bene, perché padrona dice sempre quando persone chiedono: ma che bel cane, come si chiama Woody? Cioè c'è tutto questo meccanismo in cui bisogna un po' entrare. Sì, la reazione iniziale di tutti è: ma è scritto tutto così dopo le prime pagine? Poi in realtà, si entra nel meccanismo, diventa abbastanza magnetico, perché l'idea è, io lo vedo tutti i giorni, c'è molto più di un curriculum, di un'acconciatura, di un abito. Tu capisci che è una persona da come parla, dalla lingua che usa, dalle parole che sceglie, anche dalle esitazioni. E quello ti dichiara di una persona molto più di ogni altro elemento. E Woody Cane, insomma, parlerebbe così se potesse, avesse il dono della parola. Mi piaceva provare a immaginare una lingua quasi da bambino o da straniero. Sai, quando tu sei all'estero e hai poche parole e devi raggiungere subito l'essenza di quello che vuoi dire. E devi comprendere anche il mondo che ti sta intorno. E quindi sei costretto ad andare al nocciolo. Senti Federico, visto che abbiamo detto, abbiamo seguito un po' tutta la tua carriera da scrittore, lo sappiamo, prima eri avvocato, poi hai lasciato, dai tuoi libri sono stati tratti anche dei film di successo, sia Studio Illegale che La gente che sta bene. Questo, ho detto prima, un po' quasi come se fosse una scheggia impazzita nella tua carriera di scrittore. Perché hai voluto scrivere questa storia? Ma io cercavo davvero una storia nuova con occhi molto diversi dai miei. Per cui appunto calarmi in una visione laterale che mi potesse far riscoprire delle cose che do per scontato da un punto di vista inedito. E avevo sempre scritto libri abbastanza cattivi, in cui appunto ho degli obiettivi un po' cinici, un po' ironici. Sì, mi piaceva il gioco della freccetta contro i miei obiettivi, che io amo, perché poi non puoi scrivere di qualcosa che odi veramente. Lo diceva Thomas Bernhard: sono le persone che odio di più e sono quelle che amo. In questo caso ero un pochino stanco anche di quel mio cinismo per forza quasi costruito, e avevo bisogno di un personaggio che fosse davvero buono. Però è una parentesi, mi sembra di capire. Sì, no, sono tornato ad avere voglia di cattiveria. Sì. Ma anche perché appunto Woody è veramente buono, quindi perché un cane. Infatti per trovare il buono sono dovuto andare nei cani, perché cercavo tra i miei personaggi che cinismo. Visto che sto tornando un passo indietro. Sì, insomma, tu sei del genere che ami più un cane che un essere umano? No, in realtà io amo tanto gli esseri umani proprio per quelle imperfezioni, perché sono io il primo ad averle. Io ogni tanto mi scopro delle meschinerie di pensiero che dico: madonna, se sapessero che sto pensando questa cosa, le invidie, le gelosie. Poi però cerco di controllarle. Alla fine la bontà secondo me è proprio un esercizio, cioè non è una cosa che ti viene così naturale, soprattutto con certi condizionamenti che hai. Il fatto che a un cane venga naturale essere buono in qualche modo toglie quel piccolo di merito che io, quando vedo l'uomo che è buono, dico: bravo, bravissimo. Grazie allora Federico Bacco, Mora in libreria con Woody, un libro piccolino, meno di un centinaio di pagine, illustrato da Alessandro Sanna, pubblicato da Giunti, La vita vista con gli occhi di un cane, nei confronti di un cane innamorato pazzo della sua padrona e pronta appunto a difenderla a tutti i costi. Una piccola favola, così da concedersi un momento di tenerezza, lo ameranno moltissimo le persone che hanno i cani, naturalmente, ma anche quelli che non ce l'hanno. E prima di chiudere vi segnalo un appuntamento da non perdere: domani, a partire da domani, domenica 20 dicembre, festeggiamo i 150 anni del Sole 24 Ore e i 32 anni del suo inserto culturale La Domenica. E allora, per fare un regalo ai lettori e agli ascoltatori, potrete consultare gratuitamente per un mese l'archivio storico del Domenicale, appunto, con tutti i numeri usciti dal 1983 ad oggi. Ricordiamo, c'è la possibilità di consultarlo gratuitamente per un mese all'interno indirizzo archiviodomenica.ilsole24ore.com. È tutto anche per oggi, grazie a regia Roberta Frisani, come sempre ci trovate anche in podcast. Buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco.